si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Stiamo insieme fino alle 11. Tra poco un'occhiata veloce ai giornali di oggi, per chi non avesse già sentito la rassegna stampa più approfondita fatta un'oretta fa circa dalla nostra Giulia Crivelli. Poi cominceremo, insomma, nella settimana in cui si è parlato molto di impresentabili e nella settimana in cui l'inchiesta Mafia Capitale ha visto nuovi indagati per corruzione, naturalmente, manco a dirlo, parleremo con una persona che gli impresentabili e i corrotti se li ha trovati di fronte veramente e ha reagito come si dovrebbe, denunciando il pizzo in Sicilia. Questo accadeva qualche mese fa, quando Santi Palazzolo, titolare di una pasticceria all'aeroporto di Cinisi, con le sue denunce fece arrestare il presidente della Camera di Commercio Roberto Helg. Ebbene, nel frattempo è successo che Santi Palazzolo ha visto non rinnovata la licenza della sua pasticceria dopo aver denunciato il pizzo, e non è una buona notizia. Lui però è un grande personaggio, lo incontreremo dopo il GR delle 9. Adesso, come detto, cominciamo con i giornali di oggi. Prima i nostri contatti, se volete interagire fin da subito con noi in tempo reale: la pagina Facebook è Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter del programma è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Vai, giornali. Eccoci qua, e allora cominciamo con il Corriere della Sera, che dopo aver intervistato e averlo pubblicato ieri niente meno che il presidente russo Vladimir Putin, che insomma rispediva al mittente le accuse di essere aggressivo sullo scacchiere internazionale, oggi invece ci sono le reazioni americane. Missili, tensione USA-Russia, il Pentagono, rispondiamo alle violazioni. Missili in Europa per contrastare la minaccia russa, l'ipotesi americana, una risposta ai test del Cremlino con vettori a medio raggio, alza la tensione internazionale, Washington parla di accordi violati. Velocemente leggiamo l'inviato al G7 che ha seguito, insomma, queste notizie: rispondere a una violazione dei trattati antiproliferazione con un'altra violazione sarebbe davvero un ritorno in grande stile alla guerra fredda, ma non succederà perché Barack Obama non considera la minaccia militare russa talmente pericolosa. Ma è un fatto che alla vigilia del G7, che inizia oggi in Germania nel castello di Elmau sulle Alpi bavaresi, i ministri della difesa occidentali sono tornati a discutere di risposte militari nei confronti di Mosca, che oltre ad aver aggredito, scrive il Corriere, l'Ucraina, va avanti col programma Iskander, un nuovo missile da crociera sperimentato l'anno scorso a Kaliningrad, un'arma che rappresenta una violazione del trattato di non proliferazione col quale 28 anni fa russi e americani chiusero la fase degli euromissili. Speriamo di non leggere ancora titoli così. E vediamo cosa invece dal G7 di Germania usciranno notizie un po' più concilianti. Invece c'è un altro fronte, che è sempre quello degli immigrati, per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese. Due versanti, cioè quello del sfruttamento economico da parte dei protagonisti di Mafia Capitale, ma anche proprio quello terra terra della cronaca, cioè degli nuovi sbarchi e del dove li mettiamo gli immigrati. Allora il Corriere titola: in arrivo 15 barconi, Zaia che dice non c'è più posto. Ci sono 15 barconi con migliaia di persone a bordo, sono stati avvistati ieri alla deriva nel Mediterraneo, i migranti tutti messi in salvo, sono oltre 3.000, saranno portati in Italia. Chissà, magari c'è qualcuno che sta già facendo i conti: 3.000 migrati in Italia nei centri d'accoglienza, quanto costano? 40-39 euro al giorno per qualche mese, sono business milionari. Non possiamo sopportare un esodo biblico, dice il governatore del Veneto Luca Zaia, intervistato dal Corriere della Sera. Sul fronte invece, andiamo su Repubblica, che titola sulla politica con le parole ieri di Renzi: niente pietà per i corrotti, a proposito, diciamo, di Mafia Capitale. E poi l'altra notizia è questa: rimedierò agli errori sulla scuola. Cioè, ieri Premier Renzi ha detto: intanto qualcosa sbagliamo anche noi, e ha promesso che il governo lavora a rimettere mano un po' alla riforma della discordia. Vediamo come. Allora, vediamo come, se lo troviamo, sempre su Repubblica. Scuola, nuove regole sui premi ai docenti e basta classi pollaio. Allora, vediamo cosa ha detto intanto ieri Renzi. Riformeremo la legge Gelmini che ha consentito le classi pollaio, ha detto Renzi dal palco di Repubblica delle Idee. Poi ha aggiunto: voglio riportare le classi ai numeri precedenti alla riforma del 2008. 25 studenti per classe, oggi si arriva a 28, più alcune deroghe. Ci costerà un po' più di soldi, forse potremo farlo solo nel 2017. Quindi, diciamo, primo punto da offrire agli insegnanti, insomma, agli operatori della scuola: abbassare il rapporto tra insegnanti e studenti, riportarlo a prima della riforma Gelmini. Altro punto: i precari, dice Renzi. Da un lato non possiamo andare oltre le 100.000 assunzioni già decise, però chi si è abilitato con tirocinio formativo attivo o con un percorso speciale, per lui, ebbene, stiamo ipotizzando punteggi da inserire nel concorso 2016. Quindi, diciamo, non un'assunzione, ma neanche, diciamo, perdere completamente i punteggi da parte di queste persone che stanno in graduatorie pur non avendo mai superato un concorso. Invece gli insegnanti, o comunque, insomma, i precari, i sindacati chiederebbero anche l'assunzione di questi precari. Ancora l'intervista al sottosegretario Rughetti sul Corriere, che tocca un altro tema sempre relativo alla scuola, e dice: sì a un piano per i precari, conferma quindi quello che diceva Renzi dall'altra parte, e contrappesi per i presidi. Quindi, diciamo, il terzo punto su cui il governo sta limando la riforma della scuola è quello dei super presidi, dei super manager, presidi che non piacciono molto ai sindacati, degli insegnanti, agli insegnanti. Dice Rughetti: il preside è un dirigente come gli altri, si deve guadagnare il fatto di poter dirigere una scuola, deve avere sì poteri veri, ma anche contrappesi, perché non tutti sono in grado di fare il preside, ci deve essere qualcuno che, prima di mettergli in mano una struttura, faccia una valutazione seria. Domanda, perché oggi non è così, cioè al preside di tenere in mano una scuola senza fare una valutazione seria? Non credo, c'è un concorso, ma insomma, qui il punto è che adesso sulla figura del super preside si concentrano le attenzioni del governo a seguire quello che chiedono gli insegnanti, di mitigare questa figura, insomma, di mettergli dei contrappesi. Ancora un ultimo punto sulla scuola, lo riporta La Stampa, sempre sui presidi: limite di 6 anni di permanenza nella stessa scuola, potere di mitigato di valutazione degli insegnanti e sottrazione del potere di chiamare singoli docenti. Sempre su questi punti starebbe, condizionale ed obbligo, lavorando il governo per venire incontro alle richieste degli insegnanti. Andiamo sul Sole 24 Ore per l'appello del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che dal convegno dei giovani imprenditori dice: abbiamo un disperato bisogno di crescere. Questo ha detto ieri Squinzi: abbiamo bisogno di ripartire, il paese ha bisogno di crescere. Così Squinzi a Santa Margherita, Ligure: non basta un singolo provvedimento come il Jobs Act. Insomma, bisogna darci dentro con le riforme. Questo è il senso dell'appello che arriva da Santa Margherita, convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Però sul fronte, dicevamo prima, delle inchieste di Roma Capitale, andiamo sul Messaggero, che naturalmente dedica ampio spazio, essendo il quotidiano della capitale. Intanto, dal punto di vista politico, dice: Roma, Renzi fa pulizia nel PD. Mentre continuano gli interrogatori dell'inchiesta Mafia Capitale, Renzi fa pulizia nel PD. Chi è stato condannato deve uscire definitivamente dalla politica, ha detto il Premier, aggiungendo: non chiederò le dimissioni per un avviso di garanzia. Ma il PD capitolino prepara una stretta sulle regole che prevede l'annullamento del vecchio tesseramento a Roma e nuove norme per le iscrizioni al partito, nonché la chiusura di diversi circoli. Ma quello che voglio leggervi è i costi, diciamo, del business dell'accoglienza, così come le riporta il Messaggero. Dai cara alle spese per il primo soccorso, il business dell'accoglienza vale 1 miliardo, e questo è il miliardo all'anno che è al centro di queste inchieste, perché su questo miliardo, capite, è un affare goloso, sono girate tangenti per svariati milioni di euro o centinaia di migliaia di euro. Allora, sulla carta i CARA in Italia sono 14, attualmente operativi sono 10, creati nel 2002, ci ricorda il Messaggero, come centri di identificazione dei nuovi arrivati, sono stati disciplinati nel 2008, lo scopo è trattenere gli aspiranti profughi per 35 giorni, prima che si stabilisca lo status di profugo, ma la durata media dell'ospitalità è 6 mesi. Ora, sarà un po' colpa anche della burocrazia lenta, ma sarà colpa anche del fatto che ogni giorno che passano là dentro gli immigrati, per chi gestisce questi centri, è un incasso in più. Per l'esattezza, 34,6 euro al giorno per migrante in ogni CARA. Fatte le somme, per esempio il CARA di Mineo costa, con 4.000 presenze giornaliere medie, 139.000 euro al giorno, oltre 4 milioni di euro al mese, 50 milioni praticamente di euro l'anno, solo il CARA di Mineo. E così andiamo avanti anche per gli altri, perché le cifre sono più o meno le stesse. L'appalto, intanto, ricorda il Messaggero, triennale per il centro catanese, è stato bocciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di Cantone ed era di 98 milioni di euro per 3 anni. Capite bene che con queste cifre, insomma, sono affari che hanno fatto gola a molti. L'ultima cifra, sono in questo momento 67.000 gli ospiti dei centri di accoglienza in Italia. Fatevi conti, 67.000 per 34,6 euro, e questo è il costo al giorno che, insomma, l'Italia spende, ma soprattutto che questi centri incassano, sì, per fare un servizio che per certi aspetti è doveroso. Che devi fare? Non è che li puoi lasciare in giro per strada i richiedenti diritto d'asilo. Certo è che insomma sono cifre pazzesche, e sono le famose cifre sulle quali l'Italia dovrebbe avere i famosi aiuti dall'Europa, che però continuano a latitare, perché è chiaro che questi profughi poi, insomma, sono profughi europei, ormai l'abbiamo capito. Velocemente, altri due titoli prima di chiudere questa parte. IMU e TASI, come non sbagliare, è la scelta di Libero, che titola così: il 16 giugno doppia scadenza. Invece il Fatto Quotidiano scrive in prima pagina: la casta si tiene i soldi e gli uomini di Mafia Capitale, ancora rinviate alla trasparenza dei partiti sui bilanci, finanziatori e cene elettorali. Il Premier difende Castiglione: chi ha un avviso di garanzia non deve dimettersi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno Alessio Maurizi. Adesso è il momento, cari ascoltatori, di Si può fare, di rilassarsi, di tirare il fiato e di godersi le anticipazioni, sì, del domenicale inserto culturale del Sole 24 Ore, oggi in edicola, la cultura alta. Oggi in prima pagina vedo addirittura Noam Chomsky. Ciao Armando Massarenti, ben ritrovato. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Sì, Noam Chomsky, insomma, è il notissimo linguista. Sai che Noam Chomsky è uno dei personaggi più citati al mondo. Quando fanno le classifiche, sì, sulle citazioni, su chi sono gli studiosi più citati al mondo, i libri più citati al mondo, di solito viene per prima la Bibbia, poi come secondo posto c'è Noam Chomsky. Poi dopo Fabio Volo, no? Poi dopo in Italia, queste sono cose un po' sono cose nostre. Ecco. Ma Noam Chomsky è effettivamente un intellettuale di una levatura incredibile dal punto di vista internazionale, ma ha un po' questa doppia identità, no? Un po' è molto controverso quando scrive di politica o di geopolitica, è abbastanza controverso anche quando scrive di scienza, ma molto meno, e noi parliamo proprio di questo. Noi parliamo della sua grande scoperta, lui stesso ci parla in un articolo scritto da lui, che è un'anticipazione di un saggio molto originale, molto bello, e ci parla proprio della sua scoperta. Il titolo dice già tutto: i vincoli di una favela infinita. Cioè, come mai noi potremmo parlare all'infinito e anche in infinite, tra virgolette, lingue o modalità linguistiche? Ecco, la scoperta di Chomsky è che ci sono pochi, in fondo, vincoli, una sorta di grammatica universale che fa sì che poi davvero ci sia questa grandissima varietà linguistica. Ma la cosa interessante è che lui introduce un libro che si intitola I confini di Babele, che fa sì che ci fa vedere che in realtà questa potenzialità non è poi così infinita, nel senso che è proprio nel nostro cervello che abbiamo quei vincoli che ci permettono appunto di imparare e di limitare appunto queste possibilità. Ed è uno studioso italiano, Andrea Moro, l'autore di questo libro, e quindi Noam Chomsky fa un grande omaggio ad un nostro importante scienziato che ha fatto proprio degli esperimenti di tipo neuroscientifico per far vedere che ci sono delle lingue impossibili, no? Cioè, se noi facciamo parlare qualcuno una di queste lingue che lui ha costruito artificialmente, che tendenzialmente sembrerebbero delle lingue normali anche se sono inventate, però queste lingue risultano impossibili, mentre tante altre risultano possibili. Per cui noi impariamo naturalmente le lingue secondo delle leggi che non conosciamo, insomma, ovviamente. Un tema complesso ma affascinantissimo, questo qua, sì, del linguaggio, forse uno dei più affascinanti. È molto bello, sì. Devo dire che Chomsky poi è molto affascinante proprio nell'andare a ricercare i suoi antenati intellettuali e nel far vedere come questo programma scientifico poi abbia marciato ormai per 50 anni e continui ad avere conferme empiriche. Ma guarda, se vogliamo stare più leggeri, per così dire, c'è un collegamento anche abbastanza stretto con un altro articolo che troviamo oggi sulla Domenica, che è quello di Mauro Massa, il nostro collega, che è ben conosciuto peraltro, Radio 24, certo. Che ha scritto un pezzo molto bello su Franco Mussida. Franco Mussida, sapete, è il chitarrista della PFM, no? E che ha fatto un esperimento molto bello, ha ideato una mostra che si chiama Musica Respiro Celeste, verrà inaugurata il 12 giugno alla Triennale di Milano, che sarà poi aperta fino alla fine del mese, fino al 28. E qui c'è una sorta di analogia con quello che dicevamo di Chomsky, no? Perché qui lui vuole proprio farci, anche se il linguaggio umano, il linguaggio musicale si è visto proprio dal punto di vista di Chomsky, che sono due cose piuttosto diverse, tra l'altro interessano aree del cervello diverse, e questo rimanda ad un'altra pagina, ma insomma adesso non vogliamo raccontarvi tutto, Domenicale, che parla proprio di neuroscienze, con articoli di Benini in particolare e di Martin Monti. Però qui è interessante quello che dice Mussida, che che descrive questo percorso, no? Della mostra, lungo il quale sono disposte delle installazioni laterali al soffitto, si passa accanto a queste installazioni e si è partecipi di una sorta di percorso emotivo, no? Perché lui dice è il modo più immediato per chiarire anche a chi non sa di musica come mai una certa melodia susciti in noi un tipo di emozione ed una melodia differente ne susciti un altro. Cioè, insomma, una sorta di geografia delle emozioni attraverso la musica e attraverso una mostra che appunto ha anche un grosso carattere visivo e quindi realizzando, insomma, quella sinestesia, no? Quella mescolanza dei diversi sensi, no? Che permette poi appunto lo sviluppo delle emozioni. Un pezzo molto bello di Massa che anticipa questa mostra, che testimonia anche della grande vocazione, diciamo, pedagogica che ha questo chitarrista che noi tutti conosciamo, insomma, per essere stato della PFM, per aver suonato la PFM, per avere anche peraltro fondato una scuola di musica. Poi sempre nella pagina di musica c'è una cosa che va ricordata assolutamente, che sono 20 anni che è morto un grandissimo pianista, che è Arturo Benedetti Michelangeli, certo. Ed è Armando Torno che ce lo ricorda in un bel articolo, tra l'altro ricordando anche i suoi ultimi incontri col maestro, quando appunto negli ultimi anni Torno spesso ha fatto delle interviste, ha fatto lunghe conversazioni con lui. Poi ci sono tante altre cose, ci sono per esempio un grande archeologo, Paolo Mattie, che ci parla di Palmira, degli scempi, no, che sono stati fatti dall'Isis. Su cui tra l'altro non si riesce mai ad avere anche informazione, perché naturalmente è molto complicato. Anche è molto complicato. Quindi a maggior ragione è interessante questo articolo questo vostro articolo di oggi. Credo che dobbiamo chiudere, sì. Grazie Armando, abbiamo il giornale radio che incombe tra pochissimo. Buona domenica, ciao, domenica prossima. Invece con voi, cari ascoltatori di Si Può Fare, ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 9. Avremo Santi Palazzolo, il pasticcere di Cinisi, che ha denunciato il pizzo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno e buona domenica da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Ben ritrovati con Si può fare insieme fino alle 11.800 24 00 24. Se volete intervenire per commentare con noi le notizie di questa settimana, le buone notizie, il primo ospite veramente Si può fare di oggi, che sentiremo tra poco, è Santi Palazzolo, titolare di una pasticceria a Cinisi, a Palermo, che ha avuto il coraggio di denunciare il pizzo. Un giro di tangenti, una storia però surreale questa di Palazzolo, forse realissima nell'Italia degli impresentabili. Oh, poi però vi aspettiamo anche per giocare con noi come sempre di domenica, cerchiamo un personaggio della settimana. Il primo indizio che vi voglio dare all'800 24 00 24 è che è stato al centro di uno scontro questo personaggio della settimana. In palio anche oggi mettiamo il catalogo ufficiale, niente po' di meno che, di Expo Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita, catalogo edito da Electa e 24 Ore. Un bel catalogo di quante pagine? Vediamo, 275 pagine, tutto per voi se indovinate chi è il personaggio della settimana che è stato al centro di uno scontro. 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, your silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass, bass. Hey! Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, oggi in versione senza Carlo, Carlo Gabardini, che si trova a Benevento, dove è stato convocato per il locale Gay Pride. Lo sapete, Carlo ormai è testimonial dei movimenti, insomma, per la richiesta dei diritti dei cittadini omosessuali. E allora 800 24 00 24, chissà se a fine puntata magari sentiremo com'è andata questa manifestazione. Adesso invece parleremo tra poco con un personaggio che è veramente l'incarnazione del Si può fare. Immaginate un imprenditore titolare di una importante pasticceria a Palermo, a Cinisi, all'aeroporto Falcone Borsellino, denuncia un giro di tangenti, manda in galera il presidente della Camera di Commercio che appunto per avere la sua attività commerciale gli aveva chiesto una tangente, perché gli inquirenti verificano tutte le sue denunce, scoprono che è tutto vero. Ebbene, dopo qualche mese si ritrova con la licenza della sua pasticceria in scadenza che non gli viene rinnovata. Una storia surreale, dicevo prima, forse realissima nell'Italia degli impresentabili. E la vigilia di una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sa seduto il Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva. Oggi uniti più di prima alle cosche, bosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta, in quest'Italia così laida. You gotta fight the fighter. E questo è una citazione, insomma, musicale dagli anni 90, i primi anni 90, Frankie High Energy, Faida Faida. Allora si parlava molto di mafia e di antimafia. Oggi, nonostante se ne parli di meno, non bisogna pensare che il fenomeno criminalità e mafia e pizzo sia purtroppo meno presente nel nostro paese. Diamo il buongiorno e il benvenuto a Santi Palazzolo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Santi Palazzolo, l'ho già detto nell'introduzione, titolare della pasticceria Palazzolo all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, per l'esattezza a Cinisi. È l'imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare a un certo punto delle tangenti che coinvolgevano Roberto Egg, presidente della Camera di Commercio e consigliere d'amministrazione della GESAP, la società che gestisce proprio l'aeroporto di Palermo. Per questo Egg è stato arrestato, e però la situazione surreale è che dopo qualche mese Santi Palazzolo vede non rinnovata la licenza della sua pasticceria dentro l'aeroporto. I titolari della GESAP, faccio solo questo piccolo inciso, Palazzolo, poi la faccio parlare naturalmente, certo. Dicono che si tratta, come dire, di una, è il contratto che scadeva dopo alcuni anni, è tutto normale. Palazzolo replica che nel contratto era prevista il rinnovo per altri 3 anni, e quello che aveva chiesto lui di poter avere. Di fatto il messaggio che ne esce è che un imprenditore che dà la lavoro a 40 persone, che ha il coraggio di denunciare le tangenti, gli inquirenti scoprono che la sua denuncia è corretta e quindi scoperchiano del malaffare, ecco, dopo qualche mese si ritrova senza lavoro, lui e i suoi dipendenti. Perché di fatto questo è quello che succederà quando, Palazzolo? Il 30 settembre. Perché il 30 settembre scade la licenza. Intanto, prima però di entrare nel merito della vicenda che riguarda anche il sindaco di Cinisi, che tra l'altro è anche suo parente, questa è proprio l'Italia, però ci racconti lei che cosa fa, qual è l'attività, insomma, è un'importante pasticceria nota, insomma, la sua, no? Ma noi, la nostra azienda è nata quasi 100 anni fa, per l'esattezza 95 anni fa, e io sono la terza generazione, dopo di me ci sono i miei figli che rappresentano la quarta generazione. E cosa fate? Noi abbiamo una pasticceria, gelateria a Cinisi, che è il paese, diciamo, dove è insito l'aeroporto, nel suo territorio c'è l'aeroporto di Palermo, quindi cassate, dolci, buonissime, tutte quelle cose, cannoli meravigliosi siciliani che si trovano quando si viene a trovare. Deliziamo i palati con la nostra arte. E siete all'aeroporto con un contratto d'affitto da quanto tempo? Sì. Noi abbiamo avuto due contratti, l'ultimo contratto prevedeva 7 anni, dal 1 marzo 2008 fino al 28 febbraio 2015. E lei quante persone lavorano con lei? Mi scusi, poi la faccio. In totale nell'azienda lavorano 42 persone che sono direttamente interessate nel negozio dell'aeroporto, e quindi sia l'indotto che il personale che c'è all'aeroporto sono 12 persone che lavorano. Ok. Io voglio fare una precisazione: intanto il dottor Elghe non era consigliere di amministrazione, ma è vicepresidente della GESAP. E noi avevamo un contratto con la società di gestione dell'aeroporto che prevedeva una durata di 7 anni più 3 anni di proroga dietro mia formale richiesta da fare 6 mesi prima della scadenza del contratto, cosa che noi abbiamo legalmente fatto. Quindi nel mese di agosto del 2014 abbiamo presentato una lettera alla GESAP dove chiedevamo la possibilità di usufruire di questa proroga di 3 anni. Nonostante ripetute volte e sollecitazioni per capire un po' se questa proroga veniva approvata o no, non ritenendo, fino a quel momento avendo avuto ottimissimi rapporti sia con la direzione aeroportuale che con tutti i funzionari, e avendo mantenuto noi tutte quelle che erano le nostre prerogative, quindi i pagamenti di quello che ci dovevamo, eccetera, eccetera, fino al 26 di febbraio, quindi 2 giorni prima della scadenza del contratto, il giorno in cui io ho fortemente sollecitato il vicepresidente per capire, e là ho avuto fatta la richiesta di tangente per il rinnovo della proroga. Questo è un fatto molto importante, non è il rinnovo del contratto, come vogliono far capire. Esatto, qualcuno. Non è che diciamo, non lei voleva saltare il bando, saltare dei passaggi, esatto. Voleva fare quello che era previsto dal contratto, quello, cioè una proroga. Alla fine dei 3 anni io avrei partecipato tranquillamente al bando, se c'era da fare il bando, eccetera, eccetera. Per cui io non chiedevo qualcosa al di fuori di quello che era la possibilità che mi veniva data dal contratto. Certo, chiedeva un suo diritto, l'applicazione di una clausola contrattuale, e a fronte di questo, tre giorni prima della scadenza, dopo aver fatto questa richiesta alcuni mesi prima, sette mesi prima, le viene chiesta... mi viene fatta la richiesta tangente di 150.000 euro in una prima, in un primo incontro, e di 100.000 euro nel secondo incontro. Il secondo incontro è quello che io poi ho registrato. Cioè, gli avevano abbassato la cifra da 150 a 100? Sì, diciamo che mi aveva fatto... Le stavano venendo incontro, insomma. Sì, venendo incontro. Lo dico con ironia, ovviamente, sì, perché è una cosa pazzesca, no? Ma guardi, io quello che le voglio dire è poi una cosa importante. Dal momento in cui ho ricevuto la richiesta di tangente, al momento in cui hanno arrestato Roberto Elde, sì, sono passati solo 4 giorni. Perché Roberto Elde è stato arrestato il 2 di marzo e la richiesta mi è stata fatta il 26 di febbraio. Considerando che i magistrati hanno, gli inquirenti hanno avuto bisogno di 2 giorni di tempo per organizzare tutti i verbali e tutto quello che era la procedura per l'arresto, sì, perché hanno voluto fare l'arresto con flagranza di reato, quindi io ho consegnato i soldi al presidente della Camera di Commercio nel suo ufficio alla Camera di Commercio di Palermo, sì, e questo è un qualcosa che fa capire che non ci abbiamo pensato due volte, anche supportato dalla mia famiglia e dai miei figli che mi sono stati sempre vicino, ma è stata una decisione presa senza pensarci due volte. Non ha avuto dubbi di alcun tipo, però ha avuto una buona dose di coraggio, senz'altro, o forse è stato proprio spinto da un'impellenza, da un senso di necessità. Per lei era normale, non c'era alternativa, cosa doveva fare? Avrebbe dovuto pagare. Guardi, io dico, è una cosa che può sembrare retorica, ma non lo è. Io penso che ogni cittadino ha un dovere nei confronti della società. Io ho sempre cercato, per chi mi conosce lo sa, ho sempre cercato di portare avanti il mio lavoro con onestà, dignità e rispetto del prossimo. Questa è una cosa che è uno dei valori che ho cercato sempre di inculcare anche ai miei figli. E adesso che era venuto a me il momento di fare la mia parte per cercare di avere quel cambiamento che sempre viene, come voglio dire, viene portato avanti da chi ci rappresenta, no? Ma poi praticamente è difficile da ottenere. Io non potevo tirarmi indietro, anche perché sarei venuto meno a una mia idea. E fino a quando quell'azione che io ho fatto verrà considerata come un atto di coraggio, come qualcuno ha detto, significa che in Italia c'è qualcosa che non funziona, perché dovrebbe essere la normalità quello che io ho fatto, a parte il fatto che non dovrebbe succedere, però non possiamo essere... Però la normalità dovrebbe essere anche che chi come lei denuncia una tangente, comunque un'intimidazione, una forma di pressione, viene aiutato dalle istituzioni, ci sono comuni nei quali addirittura gli imprenditori che denunciano il pizzo piano piano ottengono anche degli sconti fiscali. Invece nel suo caso lei cosa succede? Perché adesso facciamo un passo in avanti. Dopo la denuncia di Egg, dopo che viene arrestato, perché la richiesta di tangente viene registrata in una conversazione tra lei e loro, cosa succede? Che questa benedetta licenza non gliela rinnovano veramente. Questa proroga, diciamo subito dopo qualche mese, un paio di mesi credo, dal fatto, mi arriva una lettera da parte dell'amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto, nella quale mi comunica che il 30 settembre io devo lasciare i locali, perché questi locali devono passare o a un'altra società che attualmente è in aeroporto e che gestisce tutti gli spazi commerciali, oppure dietro richiesta negativa da parte di questa società a un bando pubblico. La cosa che fa un po' così, lascia la mare in bocca, è che questo stesso consiglio di amministrazione, che adesso dice che per un discorso di legalità e trasparenza non mi possono concedere questa proroga, è lo stesso che era in carica quando c'era Roberto Elde e che probabilmente avrebbe potuto anche, da come ho visto io, da quando ho consegnato i soldi, avrebbe potuto concedere la proroga, perché era scritta all'ordine del giorno nel consiglio di amministrazione che si sarebbe dovuto tenere l'indomani, il 3 marzo. Questa è la realtà. Ecco, però, e quindi io il 30 di settembre dovrò lasciare i locali. Diciamo anche una cosa, che uno dei dipendenti che lavora per lei ha fatto una petizione, sì, che si trova online, sosteniamo, sì, la pasticceria Palazzolo, che ha denunciato il pizzo, sì. Quante firme già sono state raccolte? 46.000 firme. Sì, guarda, adesso l'aggiorno perché ho aperto 47.252 firme, perché sta andando avanti. Perché, insomma, quello che alla fine... lei che colpa si sente di avere? Perché alla fine di tutto questo lei questa licenza non è stata rinnovata? Perché il messaggio che viene fuori è: chi denuncia il pizzo ha un intralcio, non può fare come vorrebbe, portare avanti la sua attività commerciale, dando tra l'altro a lavorare a una quarantina di persone. È veramente pazzesco. Io, guardi, io non tocca a me fare delle valutazioni. Io chiaramente a questa diciamo così decisione della società di gestione dell'aeroporto ho fatto ricorso tramite i miei legali, perché ritengo di subire un'ingiustizia, ma non legata al fatto che io ho denunziato, perché quello, ripeto, è un fatto mio personale, di ideologico, chiamiamolo così, tra virgolette. Io credo di aver subito un'ingiustizia, perché non vedo il motivo per cui questa proroga di 3 anni non debba essere concessa. Non sono moroso con la società di gestione. Ma guardi, io dico di più: ci sarebbero dei motivi evidenti a tutti per rinnovargliela, anche in caso, diciamo così, di incertezza. Quello che lei ha fatto dovrebbe spingere le autorità in buona fede, le istituzioni della sua città, le autorità locali, a rinnovare, a spingere perché ci sia il rinnovo di questa licenza, perché lei ha compiuto comunque un atto che non è scontato, perché ricordiamolo, non è scontato andare insomma alle autorità e denunciare la richiesta di una tangente. Lei ha detto: per me è stato naturale, perché questo è lo spirito con cui io conduco la mia esistenza, però non è scontato. Lei lo ha fatto, ha avuto il coraggio di farlo, quindi ha dato un contributo di legalità forte per la sua collettività, e questo già dovrebbe spingere nell'incertezza a rinnovare la licenza della sua pasticceria. Invece questo non è avvenuto, ad opera delle stesse persone che lei sostanzialmente ha denunciato, perché questo bisogna dirlo. Egg non c'è più, però il consiglio di amministrazione della GESAP è rimasto in carica. Quindi sono le stesse persone che in qualche modo diciamo erano sodali, vicine alla persona che lei ha denunciato, che adesso le tolgono la possibilità di continuare a fare il suo lavoro, e questo è incredibile. Ma immagino lei non farà una battaglia legale, non si arrenderà. In caso questo rinnovo non dovesse arrivare, lei ha in mente dove potrebbe trasferire questa attività, questa pasticceria? Cercherete di andare avanti comunque? Guardi, io cercherò di fare il possibile affinché, perché sa, un'azienda cerca sempre di avere diciamo dei progetti, anche e di pensare al futuro in maniera positiva, avendo dei progetti a medio e lungo termine, per cui questi 3 anni erano anche in un certo senso che facevano parte di questi progetti a medio e lungo termine. Chiaramente dobbiamo rivedere un po' tutta la nostra organizzazione, ma questo non è un problema, perché io innanzitutto cercherò in tutti i modi di poter garantire alle persone che comunque rischiano di perdere il posto di lavoro, ma ripeto, quello è un problema mio come azienda. Perché devo dire che con grande soddisfazione con tutti i miei collaboratori c'è un rapporto molto, molto intimo, e quindi di collaborazione massima, e quello se ne è. Poi vediamo, certo non ci abbattiamo per questa cosa, come si dice il proverbio qua in Sicilia: si chiude una porta e si apre un portone. Cercheremo di fare di tutto per poter continuare ad andare avanti a lavorare come sappiamo fare noi, appunto. Questo è quello che mi sento di dire. Noi glielo auguriamo, naturalmente, anzi invitiamo chi volesse farlo a firmare la petizione Sosteniamo la pasticceria Palazzolo che ha denunciato il pizzo, che si trova online, potete farlo, e questo sicuramente darà forza. In tutto questo, tra l'altro, diciamo, c'è un particolare: che il sindaco di Cinisi è suo cugino ed è anche membro del consiglio di amministrazione della GESAP. Vi siete scritti delle lettere pubbliche in città. Lei cosa ha scritto al sindaco? Guardi, io non vorrei entrare nel merito, dico solamente che io ho sempre solamente risposto quando ritengo che ci sono delle affermazioni che riguardano il mio caso che non sono secondo me veritiere. Il sindaco non ha mai preso posizione nella mia vicenda, e posso anche capirlo, ma nel momento in cui lui dichiara che non ha preso posizione perché chi di dovere faccia le sue valutazioni. Io ho sentito il dovere, per rispetto dell'azienda che io dirigo e anche dei fatti che a cui sono stato costretto a subire, di rispondere dicendo che in qualità di sindaco, in qualità di socio e azionista della società di gestione dell'aeroporto, la mia vicenda è una vicenda che interessa il comune, anche perché la mia azienda risiede nel territorio del comune, certo, di Cinisi, e quindi paga le tasse a Cinisi, e non come privato, come lui sostiene, perché lui sostiene che non ha preso posizione perché la mia vicenda è una vicenda del tutto privatistica. Beh, non lo è. Sicuramente non lo è. Un appello lo facciamo anche noi al sindaco di Cinisi, ed è questo: sappiamo che in altre città addirittura gli imprenditori che denunciano il pizzo, giustamente in base ad accordi che vengono fatti con l'associazione di categoria, grazie all'impegno di Confindustria Sicilia che in questi anni si è impegnata molto, grazie all'impegno di molti amministratori locali, ricevono sconti fiscali, aiuti, sostegno quando denunciano le tangenti, perché svolgono un servizio cruciale, importante per la collettività, per la legalità. Ma guardi, se lui non vuol fare questo, almeno le rinnovi la licenza del locale. Guardi, io non ho mai chiesto assolutamente nessun tipo di cioè non c'è nessuna richiesta da parte mia come sconto, così. Io ho solo chiesto che mi venga concesso quello che era previsto nel contratto. Sì, no, ma infatti Palazzolo, stavo concludendo dicendo: se Cinisi non vuole intraprendere questa scelta più coraggiosa di sostenere in maniera attiva gli imprenditori che denunciano le tangenti, almeno che non li ostacolasse, perché se no diventa veramente una follia. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, soprattutto per il suo lavoro e per quello che ha avuto il coraggio di fare. In bocca al lupo per la pasticceria. Grazie. Grazie Presto. A voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. E tutti a firmare la petizione, sosteniamo la pasticceria di Palazzolo che ha denunciato il pizzo. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, tra poco anche con i vostri interventi vi ricordo che stiamo cercando anche un personaggio della settimana che è stato al centro di uno scontro. Chiamateci in palio il catalogo di Expo, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, avete sentito la storia di Santi Palazzolo da Cinisi, incredibile. Si è parlato questa settimana molto di impresentabili le candidature alle elezioni regionali, politici impresentabili. I veri impresentabili, secondo me, sono gli amministratori della GESAP, compreso il sindaco di Cinisi, che non rinnovano la licenza alla pasticceria di Santi Palazzolo, che ha avuto il coraggio di denunciare le tangenti. È una cosa che non sta in piedi, è una cosa che fa arrabbiare, che fa infuriare, è una cosa pazzesca. Loro sì che sono impresentabili. Questo io mi prendo tutta la responsabilità di dirlo in questa settimana in cui si è parlato molto, a proposito sicuramente o forse anche a sproposito, non importa, di impresentabili. 800 24 00 24. Abbiamo un po' di ascoltatori in linea. Giovanni da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Prego, cosa voleva intervenire Giovanni? Sul personaggio della settimana. E chi sarebbe? Sindaco di Roma, Marino. Perché? Sentiamo. Per la questione dei Rom, le opposizioni hanno chiesto le dimissioni e lui... Sì, è alzato al centro naturalmente anche lui di scontri, perché sì, l'opposizione, la Lega, il Movimento 5 Stelle chiedono che si vada a elezioni e che sindaco Marino si dimetta. Il PD lo difende dicendo che lui non è coinvolto nelle inchieste. Non era lui il personaggio però della settimana a cui avevamo pensato, Giovanni. Grazie però per averci chiamato e per averci comunque ricordato anche questa notizia. Maurizio da Parma, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Maurizio, lei su cosa chiamava? Chiamavo per partecipare anch'io al gioco del personaggio. Sì. Io ho pensato al fascio di particelle che è stato accelerato al CERN all'inizio della settimana alla velocità di all'energia di 13 tera elettron volt. Ci spieghi meglio? La notizia è la notizia che ha riguardato, sì, naturalmente il CERN. Il CERN, il Large Hadron Collider, è ripartito, ha un'energia doppia rispetto a quella precedente. Cioè l'acceleratore ha fatto raggiunto un livello di... Sì, mai raggiunto di prima energia. Di energia, E questa è una, lei giustamente dice, se non è uno scontro questo, uno scontro è energetico. Uno scontro epocale, direi. Epocale. E quindi è per quello che... È bella questa notizia, Maurizio, che lei ci ha voluto ricordare, giocando con noi, al personaggio della settimana, però non era questo il personaggio a cui avevamo pensato. Grazie lo stesso. Sì, in effetti è uno scontro energetico senza precedenti quello che è stato attivato al CERN di Ginevra. Celestina da Trento, noi siamo su cose più, diciamo, più umane in questo caso. Celestina da Trento, buongiorno, voglio dare un buongiorno a tutti. Prego, su cosa chiamava? Ecco, io davo Rosy Bindi come risposta. Anche lei voleva giocare il personaggio della settimana, sì, Rosy Bindi, perché? Rosy Bindi per il contrasto con l'ex sindaco di Salerno De Luca, sì, che lei aveva dichiarato come candidato impresentabile per i suoi precedenti. Era stato, non so, avevo letto sul Corriere, indagato per concussione, corruzione, non so. Sì, assolutamente. Rosy Bindi è stata al centro di questo scontro la settimana scorsa, più che questa forse. Infatti non era esattamente lei il personaggio a cui avevamo pensato. Celestina, grazie, andiamo avanti, oggi di gran carriera, tante chiamate. Sergio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Era per il personaggio, la risposta sul personaggio. Sì, chi è? Sì, senti, risposta perché sento poco. Sì. Ma per me è Vittorio Sgarbi. Qual è la notizia? Al centro di quale scontro è stato? Ma perché ha avuto un diverbio davanti all'ingresso dell'Expo. Sì. Dopo essere stato festeggiato dalla sicurezza, eccetera, eccetera, poi dopo... Diciamo, per Sgarbi essere al centro di uno scontro non sarebbe più neanche una notizia, diciamola tutta, perché Sgarbi ci vive da sempre, ci vive da sempre là dentro. Vabbè. Ma perché questa volta cosa è successo? Ce lo vuoi ricordare a Expo con Sgarbi? Ce lo vuoi ricordare cosa è successo a Expo con Sgarbi? In particolare, no, non mi ricordo. È stato festeggiato all'ingresso dalle forze di sicurezza, sì, è fotografato. E lui ha sbottato, ha mandato tutti a quel paese. E poi alla fine le hanno chiesto i documenti. Vabbè, Sergio, grazie, ma non era Sgarbi il personaggio della settimana. Ne facciamo un'altra, le telefonate veloci. Roberto da Pescara, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Sì. Allora, il nome a cui ho pensato è quello di Vincenzo De Luca. Mm-hmm. Perché sì, ecco, c'è stato questo scontro appunto tra personaggi di un certo spicco dello stesso partito. Cioè, ma lei è l'altro lato della medaglia di quella telefonata di prima che ricordava Rosy Bindi, lo scontro, sì, tra Rosy Bindi e De Luca per l'impresentabile, la denuncia, sì, la querela per diffamazione, eccetera, eccetera. Esatto, sì. Non era De Luca, non era neanche De Luca, Roberto, grazie. Anzi, beh, questo era un bel trappolone, perché è ovvio che, dicendovi come indizio, al centro di uno scontro questa settimana De Bindi e De Luca ci stavano tutti, ma non erano loro i nostri personaggi. 800 24 00 24, provate ancora. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago. Marco Mengoni con Guerriero. Marco Mengoni che ha lasciato un messaggio di saluti, testimonial della festa di cittadinanza attiva Spoleto Spre KO, dove anche loro si lottano come guerrieri per mettere KO tutti gli sprechi. Buongiorno ad Antonio Gaudioso, segretario generale di cittadinanza attiva. Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Eccoci qua in diretta da, proprio da Spoleto, dove oggi è l'ultimo giorno per questa vostra festa che da un po' di tempo avete dedicato proprio al tema dello spreco. Ci racconti un po', anche se qualcosa i nostri ascoltatori sanno già, perché abbiamo già fatto qualche collegamento ieri con Giorgione, chef Giorgione, su come ridurre gli sprechi in cucina, uno dei laboratori che ci sono stati e ci sono lì a Spoleto in questi giorni, Gaudioso. Sì, diciamo che in questi giorni abbiamo provato, a discutendone con tante persone che sono state con noi, a spiegare come si può fare concretamente a battere gli sprechi del nostro paese, nel campo sanitario, nel campo ambientale, nel campo alimentare. Abbiamo parlato ieri di un paio di cose molto importanti per noi, due campagne, una in particolare Italia Sveglia, questa iniziativa promossa da Cittadinanza Attiva, Slow Food e Action Aid, sul tema della qualità della ristorazione scolastica nel nostro paese, il cibo che mangiano i nostri figli e soprattutto come evitare che tanto di questo cibo si sprechi, visto che circa il 15% di quello che ogni giorno mangiano i nostri ragazzi viene sprecato. L'ha detto anche Mattarella, ha detto bisogna fare qualcosa, bisogna fare una legge, però in Italia in effetti una legge c'è, no? La legge del buon samaritano, non basta, bisogna fare di più? Bisogna fare molto di più, perché bisogna fare in modo che, diciamo, quella parte non piccola che non viene utilizzata venga concretamente messa a disposizione di chi più ne ha bisogno, e invece non c'è un collegamento diretto e quotidiano tra gli scarti e chi invece potrebbe utilizzare. Cioè, il collegamento, mi dica se sbaglio, lo fanno le associazioni di volontariato, lo fanno quelli che si rimboccano le maniche, però diciamo in autonomia a spese loro, ma non c'è un intervento da parte cioè dello Stato, dei responsabili degli enti locali per far sì che questo accada. No, tranne che lodevole eccezioni, appunto la regola non è quella, purtroppo. E questo non è accettabile, soprattutto perché diciamo, per ogni chilo di cibo sprecato ci sono anche delle risorse energetiche che vengono sprecate, ci sono tonnellate di CO2 che vengono immesse nell'atmosfera. E questo francamente non è accettabile, perché al danno si aggiunge la beffa. E ci siamo impegnati per presentare anche i risultati di questa campagna che avevamo lanciato lo scorso anno e che ha avuto già frutti importanti, che si chiama Disponibile, che ha l'obiettivo di riutilizzare una parte importante dei beni pubblici, sì. Tantissimi palazzi, spazi di ogni genere, certo, nel nostro paese. Questa è una cosa importantissima, perché insomma c'è tantissima edilizia abbandonata, si continua a costruire, ma bisognerebbe prima, visto che lo spazio è una dimensione finita e sta finendo, prima recuperare, anche se può costare di più in certi casi, in termini strettamente economici, ma si risparmia il suolo, si risparmia l'ambiente, si risparmia tanta energia. Si risparmia tantissimo, e tenete conto che solo dei beni che sono di proprietà del demanio, quindi quelli di diretta competenza dello Stato, per non parlare quelle delle regioni e dei comuni, ripeto, solo quelli del demanio parliamo di circa 50.000 beni inutilizzati. E tenete conto che da questo punto di vista c'è un'importante disponibilità da parte dell'Agenzia del Demanio di mettere tutto online. Quindi nelle prossime settimane stanno online tutti i beni dell'Agenzia del Demanio e sarà possibile, sì. Questo va sottolineato, utilizzare due emendamenti approvati. Ecco, possiamo dire anche che avete avuto un ruolo da questo punto di vista, perché avete fatto pressione, avete spinto affinché questo processo di riassegnazione dei beni pubblici abbandonati fosse migliorato, e alla fine l'emendamento è stato approvato grazie a voi. Sì, anche grazie a voi. È stata un'iniziativa promossa da Cittadinanza Attiva e a cui si sono associati tanti soggetti, associazioni, anche tanti parlamentari. Sì. Per cui ora con l'articolo 24 dello Sblocca, sì, Italia è possibile per le organizzazioni dei cittadini chiedere l'assegnazione gratuita di beni inutilizzati per finalità di carattere sociale. È anche un modo per dimostrare che è possibile, lavorando insieme istituzioni e cittadini, mettere a reddito sociale, oltre che economico, beni che sono di tutti noi. E che è criminale lasciare inutilizzati. Ricordiamo anche che i beni abbandonati sono un costo, perché comunque la manutenzione va fatta, oppure se cadono a pezzi sono comunque un costo sociale e per l'ambiente, dati anche gratuitamente ad attività a fine sociale che li recuperano e li danno nuova vita. capite bene che è una di quelle situazioni dove nessuno ci perde e ci vincono tutti, quindi speriamo che davvero si riesca piano piano a fare sempre di più. Senta, un appuntamento su tutti per la giornata di oggi a Spoleto, per chi volesse convergere dalle vostre parti per partecipare a Spreca Pao. Beh, oggi, stamattina abbiamo il gran finale con lo show cooking di Giorgione che avevate sì. citato prima, e ci insegnerà concretamente come si può diciamo risparmiare utilizzando quelli che noi consideriamo gli scarti alimentari per cucinare. In periodo di grandi chef e di grandi confronti televisivi abbiamo la possibilità di mangiare bene, di utilizzare le cose buone che abbiamo a disposizione, che non sono scarti ma che possono darci farci mangiare alla grande a noi, ai nostri amici e alle nostre famiglie. Benissimo, allora appuntamento a Spoleto per la festa di cittadinanza attiva, Spreca Pao. Grazie Antonio Gaudioso, buona domenica e buona festa. Grazie a voi per il sostegno. Ecco, sì, anche perché diciamolo, Radio 24 ha cercato di dare un sostegno mediatico a questa iniziativa, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato ieri, ne abbiamo parlato anche oggi, giornata in cui si conclude la festa, quindi avete ancora tempo però di andare, di convergere a Spoleto e di vedere direttamente come si fa a mettere KO lo spreco. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo dopo il giornale radio, più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You start your brain just like a game to bay. You can finally see your dreams so clear, but you still feel the same. That's not what you want to be. Every Time di The Colors, canzone suggeritaci dalla nostra ascoltatrice Francesca di Lecce, perché il suo si può fare è questo. Dice che nella vita bisogna andare avanti anche quando questa sfugge al nostro controllo e non è come la desideriamo. Continuate a inviarci, a scriverci tramite i nostri social, la pagina Si può fare trattino Radio 24 su Facebook, oppure l'account Twitter @ Si può fare 24, o alla mail Si può fare radio24.it, come volete, i vostri Si può fare in musica. E insomma, ogni sabato mattina e domenica mattina, al rientro dopo il giornale radio, li faremo sentire, ve li faremo sentire, cari ascoltatori, che siete anche in linea all'800 24 00 24 per giocare con noi al personaggio della settimana, anche per commentare insomma le notizie di questa settimana. E Si può fare, da cui siamo partiti invece oggi, è la storia surreale di Santi Palazzolo, pasticcere di Cinisi. Una storia surreale, o forse ho detto io realissima, nell'Italia degli impresentabili. Abbiamo Gianluigi che ci chiama da Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie di avermi dato l'opportunità, soprattutto grazie al signor Palazzolo, una bella Sicilia devo dire. Sì, assolutamente, la sua storia, insomma, pasticcere da generazioni, titolare di un fortunato negozio che dà da lavoro a un sacco di gente, e soprattutto ha avuto il coraggio di denunciare le tangenti che gli sono state chieste quando ha voluto chiedere una cosa che gli spettava da contratto, il rinnovo per 3 anni della licenza ad operare all'aeroporto Borsellino e Falcone di Cinisi, e però adesso si è ritrovato senza questa licenza. Un fatto incredibile. questo è proprio quello che volevo dire. Allora, io come funzionario di Alitalia, dicevo alle, alle persone che ci hanno trattenuto, siamo stati spesso all'aeroporto di Palermo e devo dire che sono, sono anche buone, cioè non è che c'è anche, c'è anche un prodotto di qualità dietro. Perché lei lavora, è un dipendente di Alitalia, un funzionario di Alitalia. Sono un funzionario di Alitalia, lavoro come base operativa a Fiumicino, però spesso e volentieri ci andiamo a, in, diciamo, e quindi in lì conosce, lì conosce. Ho avuto modo di sentirli, poi la, la, la mia famiglia, la moglie ha un'agenzia di viaggi, spesso e volentieri andiamo giù con delle persone e ho avuto modo di constatarli, cioè sono veramente bravi, vivendo la, la storia come, diciamo, da una parte come italiano, dall'altra come appunto la, la famiglia, questa imprenditoria, anche se piccola, comunque sempre all'ombra, no, di quello che ti può entrare e chiedere qualcosa. Dunque capisco bene la situazione della, del, del signor Palazzolo, sicuramente anch'io firmo la, la petizione come rientro dal servizio, perciò niente da dire, complimenti a lui e io mi auguro che anche la sua famiglia continui, insomma, ecco. Anch'io mi auguro che lui l'ha detto, insomma, in qualche modo continueranno, farà una battaglia legale. Io penso, spero che, insomma, ci sono già richieste di commissariare la GESAP, perché la società che gestisce l'aeroporto, i cui, diciamo, membri, con l'esclusione di Roberto Egg, che ne era vicepresidente, da presidente della Camera di Commercio, è stato comunque arrestato per questa richiesta di tangenti ai danni proprio di Palazzolo. Insomma, forse andrebbero cambiati tutti i vertici della GESAP, che potrebbe prendere, diciamo, decisioni anche sul futuro dell'attività commerciale nell'aeroporto in maniera più serena. Sicuramente il messaggio che ne esce non è un bel messaggio: denunci il pizzo e ti ritrovi senza lavoro. Grazie a Gianluigi da Roma. Andiamo con Livio, che ci chiama da Cuneo. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire, Livio? Volevo intervenire sul personaggio della settimana. Chi è, secondo lei? Secondo me è Matteo Salvini. Perché? È visto e considerato che tutti gli altri hanno ben fatto, però chi realmente ha vinto le elezioni è Matteo Salvini. Ok, però il nostro indizio era che è stato al centro di uno scontro il personaggio della settimana, quindi quale scontro riguarderebbe Salvini, secondo lei? Ma di scontri lui ne ha tutti i giorni. Tutti i giorni, sì. Dove faccio uno scontro, peggio che così. Anche questo è vero. Anche questo è vero, e ci poteva stare pure Salvini, ma non era lui, Livio. Grazie per averci chiamato. Giancarlo da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Chiamo per la mia ipotesi di risposta. Sì? E chi sarebbe? Salvini in qualche modo c'entra, ma io punterei le mie attenzioni su Venditti, che si è molto contrattato con lui. Non ho seguito in diretta nemmeno io neanche l'ho visto, perché queste cose mi hanno un po' stufato, questi scontri finti o presunti tali in TV tra idee opposte, tra personaggi che hanno detto la loro milioni di volte. Venditti se l'è presa con Salvini, sì, e quindi lei dice al centro dello scontro c'era lui e il personaggio è lui, ma invece no, non era lui. Giancarlo, grazie per averci chiamato. Poi il resto, a Roma Venditti è sempre un personaggio, quindi che dire. Giorgio d'Ancona, buongiorno, proviamo anche buongiorno. Con lei, voleva giocare buongiorno. Sul personaggio? Sì, Matteo Orsini. Perché? Perché è stato al centro di una polemica tra EDS, il PD, la sua ha avuto un lapsus, è tornato, diciamo, a quando c'erano EDS. O quanti, sì, quanti anni sono passati? Quanti anni sono passati da EDS? Ormai sono passati 6-7 anni. Anche di più? No, di più, forse di più? No, non me lo ricordo nemmeno io. Quando, no, quando io. È nato comunque il PD, non, insomma. Più di 10 non sono di sicuro. Vabbè, non importa. Matteo Orfini, perché diceva, scusi, l'ho interrotta? Perché io è stato in polemica con i suoi dirigenti, con l'opposizione, sui giornali non si parlava altro di questo scontro su Marino, sia su Marino sia su De Luca, insomma, sono stati parecchie polemiche tra lui e devo dire che, il resto della politica. Devo dire che questa notizia l'avete presa più o meno tutti, cioè molti ascoltatori, perché è chiaro che è stato un grande scontro quello nel PD sulla questione degli impresentabili. Chi ha detto De Luca, chi ha detto Rosi Bindi, adesso l'ha detto Orfini, ma non era questa la notizia a cui avevamo pensato. Grazie anche a lei. 800 24 00 24, a questo punto, per farvi portare a casa il catalogo ufficiale di Expo, edito Electa 24 ore, quindi diciamo ci siamo di mezzo anche noi, che è il premio di oggi. Vi do un altro indizio, e l'indizio, aprite bene le orecchie, è che il nostro personaggio ha scoperto che non tutti gli amici sono amici, mettiamola così. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come un pensiero di strada, come la nostra amarezza, per ogni dura certezza, lasciando questa frontiera scura, la nostra America vera, è solo l'ama di luna, luna che taglia la strada. La vicenda dei migranti ha tante sfaccettature, ci sono tanti aspetti che riguardano, insomma, le storie dei migranti e come si intrecciano con le storie di noi italiani che siamo qua ad accoglierli o, insomma, a preoccuparci anche per queste situazioni, a dividerci su come gestire questo fenomeno. Una sfaccettatura è la cronaca: 15 barconi con migliaia di persone a bordo sono stati avvistati ieri alla deriva nel Mediterraneo, migranti tutti messi in salvo, sono 3.000 e stanno arrivando verso l'Italia. Il governatore del Veneto, rieletto da poco, Luca Zaia, ha ribadito, ha confermato ancora una volta: la nostra regione non è disponibile ad accoglierne altri. E insomma, questo è quello che passa il convento dal punto di vista della critica, della cronaca, scusate. Un'altra sfaccettatura riguarda le frontiere di terra, per esempio il Brennero, per esempio le frontiere che guardano italiane verso la Slovenia, frontiere da cui c'è un continuo passaggio di cui si parla magari meno perché vediamo di più e concentriamo più attenzione sugli sbarchi dei migranti con le imbarcazioni, appunto, sulle coste del sud. Ma queste frontiere sono frontiere in cui c'è sempre movimento. Adesso, per esempio, al Brennero, alla vigilia del G7 che si svolge in Germania, c'è un movimento, ma un movimento di ritorno, perché molti migranti che normalmente passavano vengono fermati dagli austriaci che ce li rimandano indietro. Ne parliamo con un volontario dell'associazione Volontarius che si chiama Roberto Defant. Buongiorno. Buongiorno a voi. L'associazione Volontarius che opera a Bolzano? A Bolzano, certo, sede a Bolzano, e in questo momento è impegnata sulla stazione di Bolzano e sulla stazione del Brennero. Voi normalmente come nasce la vostra associazione? Chi siete? Di cosa vi occupate? La nostra associazione nasce a cavallo del 99-2000, nasce per l'intervento di una persona che attualmente è Claude Rotelli, il nostro presidente. Ha incontrato un gruppo di persone alla stazione di Bolzano, minori e adulti, e nessuno sapeva come prendersi cura di queste persone. Lui, assieme a un amico, si è fatto carico di quel gruppo di persone, 35, e da lì poi è partito tutto un progetto riferito a tutte le persone che sul territorio si trovano in stato di marginalità, in stato di bisogno, in stato di sofferenza. Ce ne sono tante a Bolzano, dalle vostre ce parti? Ce ne sono come in tante altre città, sono persone senza dimora, sono profughi, sono misna, sono i minori stranieri non accompagnati, sono ragazze che si prostituiscono, sono persone che sul territorio vivono un disagio, una marginalità che non necessariamente si manifesta poi in situazioni così eclatanti, così evidenti. Con ognuna di queste persone noi cerchiamo innanzitutto una relazione, un contatto personale. Sì. Secondo voi queste sono le persone più fragili, che hanno più bisogno, più deboli sul vostro territorio e che possono di conseguenza, diciamo, essendo i più deboli, essere più esposti anche rispetto alle situazioni di difficoltà, ma anche al mondo della criminalità, quindi per esempio il traffico di persone, eccetera, di clandestini che sappiamo esistere? Beh, certamente sì, le persone di cui abbiamo parlato finora sono tutte persone che vivono delle condizioni di sofferenza e di disagio, per cui sono anche più facilmente in pericolo rispetto a situazioni di difficoltà. La nostra attenzione però si rivolge alle persone in senso lato, per cui noi incontriamo anche moltissimo gli studenti nelle scuole, i gruppi culturali, i gruppi parrocchiali, chiunque ci chiama per confrontarsi e condividere con noi quello che io chiamo il pensiero forte volontarius, e cioè ogni persona è importante, indipendentemente da chi sia e da cosa faccia. Senta, ma cosa risponde? Adesso poi parliamo naturalmente di quello che sta succedendo alla frontiera del Brennero, però voglio fare un'altra domanda. Cosa si sente di rispondere, di dire a chi sostiene questa tesi che, diciamo, garantendo un aiuto, un sostegno, un'assistenza, un'accoglienza a questi migranti, noi in qualche modo gli stiamo mandando un messaggio: venite qua che c'è posto per tutti, cosa che invece non è, perché ovviamente la presenza e l'arrivo degli immigrati crea anche delle difficoltà, cioè che chi fa quello che fa lei, cioè fa solidarietà, starebbe dando un messaggio sbagliato addirittura. Questo è quello che qualcuno sostiene. Sì, comprendo assolutamente la situazione, fino al punto in cui ognuno di noi ha una visuale ristretta rispetto a quello che viene definito il proprio orticello, no? Noi siamo vissuti molto bene fino adesso, anche in questa crisi dobbiamo riconoscere che con tutte le difficoltà che abbiamo, e sono tante, viviamo comunque bene rispetto a chi nel proprio paese non può vivere. Se resta in quel paese viene catturato, viene torturato in maniera molto pesante, sia fisicamente che psicologicamente, e viene ucciso. Per cui rispetto a queste persone noi siamo ancora i ricchi. Detto questo, secondo me la visuale deve essere assolutamente molto più ampia. Stiamo vivendo un momento storico che è assolutamente nuovo, purtroppo non è ancora, io credo, compreso fino in fondo. Il movimento delle genti, i popoli che si stanno spostando, è un movimento irreversibile, non si torna indietro, per cui la soluzione non può essere parziale dell'Italia con il problema di Lampedusa piuttosto che del Brennero o di Bolzano, o dell'Europa che accetta o meno un'accoglienza di queste persone. Il problema è globale, il problema è universale. Quello che succede in Australia, quello che succede in Malesia, abbiamo scoperto 20 giorni fa questi campi che io definirei solo campi di concentramento, altro termine non mi viene, per cui è una situazione che vede popolazioni in movimento ed è una situazione irreversibile, per cui dobbiamo studiare e capire una forma nuova di organizzazione sociale. Allora, io vi ringrazio personalmente per quello che fate. Secondo me mandate un messaggio molto bello di accoglienza, di solidarietà, di aiuto. Fate un lavoro concreto, prezioso, importante. Evitate che le situazioni peggiorino, degenerino ancora di più. E c'è un'umanità di fondo in quello che fate che sicuramente è bella da raccontare, da vedere, da vivere. Il tema poi della gestione dell'immigrazione è un'altra cosa, cioè, quello che fate voi non toglie niente a discorsi per quanto riguarda l'intervento dell'Europa, alla possibilità di mettere dei controlli alle frontiere, eccetera, eccetera. Sono due cose diverse. Però adesso invece mettiamole in collegamento, perché alla frontiera del Brennero qualcosa sta succedendo. Cioè, normalmente c'è un passaggio, un transito dall'Italia verso l'Austria. Sì, certo. Allora, intanto diciamo subito che tutte queste persone, questo flusso così aumentato al Brennero c'è circa dal mese di dicembre, a Bolzano c'è circa dalla metà di aprile. E tutte queste persone che transitano, ed erano fino alla settimana scorsa, due settimane fa, più di un centinaio al giorno, non hanno assolutamente nessuna intenzione di fermarsi sul territorio nazionale. Cioè, questi sono i famosi aspiranti richiedenti diritto asilo profughi o immigrati, comunque magari a cui è stata anche respinta la richiesta, che invece di tornarsi al loro paese come viene intimato, in realtà vanno in cerca di possibilità di una situazione migliore nel nord Europa, a cominciare dall'Austria, partendo dall'Italia. Sono due blocchi, diciamo, di persone, quelli appunto che cercano un'ulteriore opportunità, e coloro invece che secondo me sono un numero molto molto elevato, che già in partenza dal loro paese sanno che in Germania, in Norvegia, in Danimarca, in Svezia ci sono parenti, familiari o amici che li stanno aspettando. Infatti bisogna dire anche una cosa, Defante, la voglio aggiungere io, poi la faccio proseguire, che quando parliamo di quote di immigrati in Europa, quando parliamo di Gran Bretagna e Francia che sono critici rispetto al tema delle quote, parliamo di paesi, compresa la Germania, che hanno circa il doppio degli immigrati che abbiamo noi in Italia oggi, ad oggi, il doppio come numeri e come incidenza sulla popolazione. Certo. Quindi parliamo di paesi che sono più avanti di noi nel tema dell'accoglienza, hanno dovuto affrontare più di noi il discorso dell'accoglienza, dell'integrazione, della concorrenza tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri. Quindi è anche normale che in questi paesi siano attrattivi da un lato per gli immigrati, perché ci sono più possibilità, ma siano anche un po' stufi forse di forse anche più di noi di accoglienza e di, diciamo, di doversi mostrare aperti nei confronti delle quote. Questo va detto quando parliamo di quote in Europa. Quindi lei ci stava dicendo, ci sono questi gruppi che si muovono, che vanno verso l'Austria. Adesso però che c'è il G7, cosa succede? Che ci sono più controlli e la situazione si inverte, passare, ce le rimandano indietro. È più difficile passare, una quota viene respinta, per cui ritorna in Italia. Cosa succede a questo punto? La maggior parte di loro decide di provare strade diverse, per cui riprendono il treno per Bolzano e da Bolzano ripartono poi per Milano, c'è un flusso abbastanza consistente, sì, per Milano. Una quota minima, ancora numeri assolutamente per il momento gestibili nelle due stazioni, si ferma una notte, due notti e riprova in altre forme, in altre maniere a passare. Sono state trovate un paio di settimane fa gruppi di persone a piedi sull'autostrada, altri in maniera ancora più pericolosa sono stati trovati a piedi sui binari, sì, per cui è talmente forte questo sogno migratorio che, nonostante anche tra le persone in transito sicuramente si è già sparsa la voce che c'è questo blocco causato da Schengen, dal G7, nonostante questo provano continuamente. Però diciamo anche una cosa, ora al di là del G7, che poi avrà un inizio e avrà una fine, normalmente se i controlli alla frontiera del Brennero fossero sempre quelli che ci sono adesso e ci fosse questa politica dei respingimenti, diciamo, per noi italiani sarebbero guai, perché quanti sono? Lei ci diceva un centinaio forse al giorno che passano, cioè sono fino a prima della chiusura, diciamo che con il primo treno delle 8 e 5 del mattino, sì, arrivavano già tra gli 80 e le 100 persone, è come... e nell'arco della giornata, sì, ottava poi. Possiamo dire che questi treni sono un po' cioè stanno all'Austria come i barconi stanno all'Italia, cioè nel senso che questi sono i canali attraverso cui in Austria, ma poi anche verso la Germania, arrivano gli immigrati. Il passaggio è quello, per cui chiaramente tutte le persone tendono a anche se fatte scendere dalla trilaterale, dalla polgara, da un poliziotto italiano a ripartire. Tendono assolutamente in tutte le è come se ci fosse un barcone al giorno con centinaia di immigrati che sbarca certo, sulle coste del sud Italia. Questo è giusto dirlo, perché bisogna capire quali sono i flussi degli immigrati quando parliamo di queste cose. Quindi voi vi aspettate che una volta terminata, diciamo, questa emergenza legata al G7, poi diciamo le cose tornino un po' alla loro normalità, quindi questi flussi siano un pochino più consentiti o no? Diciamo che più che altro ci aspettiamo che siano meno le persone che si fermano per un giorno o due alla stazione di Bolzano del Brennero, per cui riprenda a esserci quel transito normale. Grazie per essere stato con noi, al volontario dell'associazione Volontarius Roberto Defant, grazie ancora per quello che fate, siete un bel si può fare anche voi. Ripeto, il dibattito su come gestire l'immigrazione e gli strumenti da utilizzare ci sta tutto, è un'altra cosa. Il lavoro di volontariato e di solidarietà che fanno queste persone è una cosa che dovremmo tutti apprezzare. 800 24 00 24, abbiamo chi facciamo? Abbiamo Giuseppe da Catania, forse vuol commentare ancora le notizie di cui abbiamo parlato questa mattina. Giuseppe, o giocare al personaggio? Buongiorno. No, voglio commentare due cose. Una, sì, riallacciando a quella che ha appena finito come intervista, sì, voglio solo ricordare che il 10% della popolazione mondiale consuma il 90% delle risorse dal punto di vista alimentare, tanto per capire di cosa stiamo parlando. Sì. E quindi il flusso migratorio credo che obiettivamente sia una marea montante che è inutile metterci le mani, diciamo, di fronte, non serve a molto. L'altro commento, se mi consente, da siciliano che vive in Sicilia, per essere precisi, è che davanti a quella situazione di Palermo, dell'aeroporto di Palermo, di quell'imprenditore, se mi consente, io come siciliano il cuore a pezzi per questo tipo di problematiche. Tanto morì della Chiesa, sui muri di Palermo scrissero: in Sicilia lo Stato non c'è stato, e se c'è stato nessuno l'ha visto. E ancora questo Stato mi pare che nessuno lo stia vedendo. La storia di Palazzolo genera molta amarezza, ovviamente. Speriamo che si concluda diversamente. È una lotta tra la legalità e, possiamo dire, insomma, i vertici di questa GESAP, che finché non prendano le distanze da quello che è successo, dal fatto che il loro ex vicepresidente pagava, chiedeva, scusate, le tangenti proprio agli imprenditori onesti, finché questo non accade, purtroppo sono veramente degli impresentabili, stanno mettendo i bastoni tra le ruote a una persona che fa il suo lavoro, porta avanti la sua attività commerciale e addirittura fa qualche cosa di più, cioè prova a ripristinare la legalità facendo una denuncia che, lo ripeto, non è una cosa scontata, costa qualcosa a chi la fa. Sentirsi come papà senza santi da pregare si può fare, ed avere tanti soldi da poterseli rubare si può fare. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Abbiamo Silvia che ci chiama da Roma. Buongiorno e benvenuta. Ciao Alessio. Ciao. Volevo partecipare al gioco del personaggio della settimana. Vai, spara la tua risposta. Io credo sia Blatter, il magnate svizzero che per la quinta volta è stato eletto presidente della FIFA e si è ritrovato al centro di, credo, un bello scontro, si è anche dimesso, sì, nel frattempo, internazionale. Sì, sì, sì. Poi si è anche dimesso nel frattempo, uno scontro, sì, internazionale con la FBI alle calcagna. Esatto. E la notizia ci sta tutta, però non è lui, non è Blatter, non è lui. Grazie Silvia, abbiamo dato un altro indizio che parlava di amici che non sono più amici. Abbiamo detto come secondo indizio Giusy da Como. Buongiorno. Sì, buongiorno. Anch'io volevo partecipare al gioco. Sì. Secondo me è Rosa Ramazzotti. Perché? Perché ha litigato con Luca Barbarossa durante la partita del cuore che si è giocata con la nazionale. Giusy. Non era Rosa Ramazzotti il personaggio, no? Anche se diciamo che qualcosa potrebbe essersi mosso. Luca da Rimini, buongiorno. Sì, eccomi, buongiorno. Sì. Secondo me è Nedved. Anche tu la risposta al personaggio della settimana. Nedved, raccontaci perché. Ho visto lo scontro che c'è stato dopo il tunnel da parte di Moreno durante la partita. Da quale partita? Raccontaci bene la notizia. La partita del cuore, credo, non l'ho vista, sì, ho visto soltanto lo scontro, diciamo. Era la partita del cuore, c'è stato lo scontro, si trattava di Nedved, ma non è lui il personaggio a cui avevamo pensato, Luca. Anche se devo dire, Luca, che sei andato abbastanza a questo punto, insomma, come faccio a uscirne vicino? L'hai sfiorato il personaggio al centro dello scontro e che, ripeto, secondo indizio ha scoperto che non tutti gli amici sono amici, non era proprio Nedved. Di così cosa vi devo dire? Cari ascoltatori, 800 24 0024. Parliamo di cinema, siamo ancora abbastanza a caldo, diciamo così, della delusione per Cannes, dove non abbiamo vinto neanche, i nostri film non hanno vinto i premi principali, i nostri grandi registi Moretti, Sorrentino, Garrone, eccetera, eccetera, ma per il cinema italiano c'è una buona notizia, una piccola buona notizia che vi andiamo a raccontare, ed è la storia di una iniziativa di cui abbiamo parlato anche in passato che adesso si è concretizzata. Salutiamo Antonello Centomani. Buongiorno Antonello. Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. ben ritrovato, veramente, infatti ci siamo sentiti proprio esattamente un paio di anni fa circa. Eh sì, quando eravate proprio all'inizio, agli albori, con questa idea di ritornare a riempire le sale dei cinema italiani con sfruttando le nuove tecnologie, sfruttando tutte le tecniche dei social, e adesso il sito è online e avete cominciato. Come si pronuncia? Perché voi tutti ormai scegliete nomi in inglese, io ho qualche problema con l'inglese. No, infatti sì, abbiamo provato a scegliere un nome italiano, sì. Ci siamo impegnati moltissimo, non siamo riusciti, e quindi alla fine abbiamo trovato uno in inglese però molto carino, che è Movie Day. E il sito è movieday.it, proprio per richiamare il giorno dell'evento, nel senso che la proiezione è una proiezione non fine se stessa, ma è proprio un evento da condividere con le persone, con amici e appassionati. Insomma, l'inglese si presta per le sigle, per i nomi, lo sappiamo, io scherzo, cioè, ricordo che c'è la petizione Dillo in italiano in giro, se volete firmarla, perché tornare un po' all'italiano sarebbe bello, però quando ci vuole, ci vuole. In questo caso ci voleva, anche perché insomma questo è, vabbè, poi Movie Day si capisce benissimo. Antonello, spiego io di cosa si tratta, perché gli ascoltatori dicono: ma di cosa stiamo parlando questi due qua? Poi ti faccio raccontare come siete arrivati a realizzare questa, che è una vera e propria startup, una vera e propria iniziativa imprenditoriale. Si basa tutto su una piattaforma online che appunto si chiama movieday.it. Si trovano dei film proposti, oppure si possono proporre dei film, si sceglie un cinema tra quelli che fanno parte della rete, che sono a disposizione, una sala cinematografica, siete presenti in alcune città, si cerca un pubblico e se si ottiene il numero di spettatori minimo necessario si farà la proiezione, cioè decidi tu cosa vai a vedere al cinema, film magari de sé, film vecchi, film tutto quello che ti pare, è un modo per ridare una seconda vita alle sale cinematografiche. Io ho descritta più o meno così, probabilmente avrò detto le linee esattezze. Antonello, raccontacela invece tu. Assolutamente, confermo tutto, anzi, bravissimo, complimenti. È proprio così, Movie Day è uno strumento, una piattaforma appunto online che permette agli spettatori di organizzare proiezioni al cinema. In questo modo si rovescia, come sempre accade ultimamente in questi periodi di sharing economy, e si rovescia la piramide e quindi la richiesta dal basso. E allora non siamo più a dover aspettare se escono film che vogliamo, se dover vedere film che desideriamo magari su computer e quant'altro, siamo noi a poter richiedere i film che vogliamo nelle sale, che molto spesso anche quelli nuovi non arrivano, o indipendenti, e possiamo noi organizzare le proiezioni e far conoscere noi, diffondere appunto dei film, o comunque vivere un evento in condivisione appunto con amici e altri appassionati. Certo, tipo. Anche conoscere delle persone nuove, no. Perché naturalmente può essere chiunque che aderisce alla richiesta. Allora, due domande. Prima di tutto, in quante città siete presenti e avete messo a rete le sale? E allora, le richieste sono tantissime. Noi ovviamente siamo appena partiti e siamo poche persone, anzi un team molto bello ma anche piccolo, e approfitto per ringraziarlo, perché poi non molto spesso capita di citarli, che sono Paolo Nepi, Stefano Perna, Vittorio Mastrilli, che è un esercente di Saronno, Alessandro Niballi, Maya Breschi, e più gli sviluppatori fanno quello sito. E niente, partiamo con Milano, Paderno Dugnano, Saronno, quindi Milano provincia, e poi Roma e Napoli. Okay. E sono stati già creati i primi eventi da anche dei promoter d'eccezione, cioè appunto chi organizza la proiezione è il promoter della proiezione. In questo caso i primi eventi vedono per esempio a Napoli una madrina d'eccezione, che è Mariangelo Contursi di Città della Scienza, direttrice di Città della Scienza, che ha organizzato la proiezione di un bellissimo film documentario su Napoli. Io infatti gli ho chiesto di organizzare la proiezione, lei mi ha detto: ma posso scegliere qualsiasi cosa? Io ho detto sì. E lei ha detto: ok, vorrei tanto far vedere questo film documentario sui fondali di Napoli, che è molto bello, poetico. E quindi lei ha organizzato questa proiezione, che si terrà il 2 luglio a Napoli. Benissimo. Ed è visibile online appunto insieme agli altri eventi. Oppure un altro evento cui teniamo moltissimo è la proiezione di Fuoco Amico, un film indipendente italiano che parla della storia vera di un militare scomparso 25 anni fa, di cui ancora la famiglia chiede risposte. Sì, perché diciamo una cosa, che a differenza di altre attività di startup che diciamo trovano nella rete online un loro momento diciamo decisivo, Movie Day invece poi ha un ritorno nella vita reale, cioè si va al cinema, non si guarda online. Non so se gli ascoltatori, magari qualcuno non ha capito bene, non, in online si va solamente per creare l'evento, decidere quale film e cercare il pubblico per riempire poi la sala, poi si va normalmente al cinema e si gode dell'esperienza proprio quella classica di andare al cinema. Ci sono quali altri eventi sono adesso in, diciamo, in, come dire, che stanno cercando un pubblico? Ma in programmazione appunto questo qua, poi c'è un altro, sempre un primo evento a Milano organizzato da un gruppo di una band di DJ che si chiama Spazio Petardo, che hanno organizzato la proiezione del film Il Buono, il Matto e il Cattivo, che è un film coreano di 2 anni fa. Sì. La Tucker, molto bello, passato al Far East, che è un omaggio in salsa coreana a Sergio Leone, ed è veramente quindi un'opportunità imperdibile. Poi dopo c'è anche il loro concerto, quindi un doppio evento, un evento nell'evento. E poi vari altri eventi che si stanno creando, gli spettatori stanno iniziando a creare altri eventi che sono anche quelli che stanno mano a mano vanno online. E quindi niente, siamo contentissimi. E la cosa importante, come ricordavi, è che il film viene visto in sala, ed è questa appunto la cosa bella. E lo strumento di internet, dei social network, serve solo appunto ad aggregarsi e certo, a fare in modo che la proiezione venga confermata, perché l'acquisto del biglietto è online e questo serve. Quanto costa poi il biglietto, come un cinema non, come un film normale, o un po' meno o di più? Assolutamente, costa come un film normale. Un cinema normale può costare dai 4 ai 10 euro in base a giorni, ore e altri fattori e varie cose. Esatto. Questa è la Sharing Economy, questa è Movie Day. Grazie Antonello Centomanni per essere stato con noi, il fondatore, l'avevamo sentito tra i primi forse per quanto riguarda diciamo i media nazionali già 2 anni fa, Antonello si ricordava. Adesso, dopo tutta una lunga trafila, queste sono le start-up, queste sono le idee che poi cominciano a camminare sulle loro gambe. Adesso questa idea è diventata realtà. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Roberto che ci chiama da Pisa. Buongiorno e benvenuto Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Io credo che il personaggio sia Moreno. Perché? Perché Nerd ha dato un pestone, ci fa lo sconto nella parte fuori. Ecco l'applauso che scatta. Perché Roberto ha indovinato, e beh, insomma, mi dispiace quasi per l'ascoltatore di prima che ha detto Nedved, cioè aveva centrato perfettamente la notizia, ma aveva sbagliato a centrare l'attenzione sul però Nedved. Però l'avevo pensato anch'io prima. Beh, insomma, erano loro due i protagonisti di questo scontro. Sì. Moreno è quello che ne ha riportato, diciamo, i danni. E va bene, insomma, è finita così, la partita del cuore con qualche pestone di troppo. Grazie Roberto, ti porti a casa il catalogo ufficiale di Expo, quasi 300 pagine edito da Electa 24 ore, quindi anche noi ci siamo in mezzo. E grazie per aver giocato con noi, coi giochi torneremo naturalmente sabato e domenica prossimi. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. Eccoci qua, Federico Taddia, buona domenica, ben ritrovato. Buona domenica, Alessio. Allora, abbiamo appena sentito una storia incredibile che si è sostenuta anche col crowdfunding, quella di Movie a Day. Tu quale storia ci porti oggi, Fede? Un paio di iniziative molto interessanti. La prima arriva dalla provincia di Pesaro Urbino, è promossa dall'Associazione Libera Musica. L'Associazione Libera Musica organizza corsi di musica, in tanti lo fanno ovviamente, però loro mettono al centro il diritto a suonare uno strumento musicale, quindi per i bambini avere il diritto di poter fare questa esperienza. Quindi organizzano corsi a prezzo bassissimo, realizzando piccole orchestre nella provincia dove cercano di fare suonare insieme ragazzi disabili con ragazzi magari che provengono, che vivono in condizioni di disagio, insomma, mettere la musica come aggregante. Per fare questo, per partire con un nuovo progetto, stanno raccogliendo 10.000 euro, questo è il target dell'iniziativa, che si chiama Regala un violino. Perché? Perché con questi soldi vogliono acquistare violini, viole, violoncelli e contrabbassi da mettere a disposizione gratuita dei bambini, in modo che possano ovviamente... Bello questo, insomma, questo concetto del diritto associato alla musica e ai bambini, perché in effetti non ci si pensa mai in questi termini, ma... forse è così veramente, ma poi insomma fare dei corsi di musica, comprare gli strumenti ha dei costi e non tutti magari se lo possono permettere. Esatto, e qui invece di mettere al centro la prestazione, che è importante imparare a suonare lo strumento, però al centro mettono proprio il valore dell'integrazione, della contaminazione. Belle anche le ricompense, con i 50 euro il violino avrà il tuo nome, cioè il violino che suonerà un bambino avrà la targhetta col tuo nome. Ah, che bello! 50 euro, 10 euro vengono a fare una serenata per chi vuoi tu. Questo è ancora meglio, questo è ancora meglio. 200 euro il violoncello. Sempre che imparino a suonare bene, Fede, sennò va a finire male la storia d'amore. Per 1000 euro sono a disposizione anche con l'intera orchestra a venire a fare un concerto molto speciale. Quindi ideaginger.it è la piattaforma che regala un violino, appunto è il nome di questo progetto. Mancano 100 giorni, quindi c'è tempo per raggiungere 10.000 euro. Senti, hai 40 secondi per la prossima, ce la fai? 40 secondi te la faccio. L'associazione Vivo, qui siamo ad Ascoli Piceno, vuole aprire il giardino dei luoghi dimenticati, un luogo, uno spazio dove i bambini invece di trovare wifi, PlayStation, iPad, trovano pezzi di legno, trovano corde, trovano chiodi e trovano martelli, e lì ci sono volontari che aiutano a costruire i giochi di una volta. Anche qui l'integrazione e la manualità al centro. Il giardino dei giochi dimenticati, produzionedalbasso.com è la piattaforma. Quanto cercano? Ma allora è offerta libera, di quelle non ci sono limiti. Va bene. E in cambio ti vinci con 30 euro, ti danno il manuale con le istruzioni per realizzare questi giochi, che non è male. Vedi, poi è una cosa utile tra l'altro. Grazie Fede, a domenica prossima. Buona domenica, ciao. Vi ricordo che trovate tutte le segnalazioni sulla pagina che si può fare, sul sito di Radio 24, del crowdfunding di Federico Taddia, ma anche tutte le altre notizie che abbiamo dato tra ieri e oggi. L'appuntamento è a sabato prossimo. Grazie Andrea Piana, autore insieme a me del programma, Claudia Schiattone, Milan Lucchetti, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta quest'oggi, Filippo Reggi regia. Ciao a tutti da Alessia Maurizia, sabato prossimo, e anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.